Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze. Ciao a tutti, io sono Ugo Rossi e ospito questa trasmissione di Radio Virus dedicata oggi alla politica dello stato di eccezione. Io sono un attivista nonché studioso di problematiche urbane, insegno all'università. Oggi abbiamo con noi tre ospiti, Sara Gandini, che è una epidemiologa e biostatistica milanese, lavora a Milano, è molto impegnata in queste settimane, in questi due mesi di emergenza, nella proposizione, nella proposta di vie alternative alla gestione dell'emergenza, che Sara ha rappresentato davvero una voce critica fuori dal coro nel dibattito pubblico. Poi abbiamo Tristana Dini, che con Sara ha scritto. Tristana è una filosofa e insegnante di scuola, nonché attivista, anche lei è molto impegnata in queste settimane, soprattutto per i diritti dei bambini che sono stati, come sappiamo, sepolti in questa politica dell'emergenza. E con Sara ha scritto un articolo molto interessante, insieme anche con una terza autrice, apparso su Jacobin Italia, in cui facevano una serie di proposte pratiche di gestione del post-emergenza, della transizione successiva alla fase più difficile dell'emergenza. E infine abbiamo Pierandrea Amato, che è un compagno, che è un filosofo teoretico e di estetica all'Università di Messina, che ci offrirà delle riflessioni sulla politica dello stato di eccezione. Io vorrei partire con una riflessione che mi è scaturita proprio oggi, stamattina, leggendo il Manifesto, quindi, come tutti sappiamo, un quotidiano di sinistra, progressista, anche se vogliamo libertare in qualche misura nella tradizione del Manifesto, un'intervista a uno degli epidemiologi italiani più in vista nell'attuale dibattito pubblico e anche televisivo, Alessandro Vespignani, che insegna a Boston. Questa intervista si conclude con un'affermazione che mi ha lasciato abbastanza di stucco. Vespignani dice, di fronte alla domanda della giornalista: ma se la situazione è questa, cosa possiamo fare? E lui finisce rispondendo, e poi l'intervista finisce lì: bisogna fare pressione sui politici perché affrontino questo virus per quello che è, una guerra mondiale. Queste parole mi hanno veramente lasciato di stucco e mi hanno fatto pensare sul fatto che, su qualcosa a cui pensavo fin dall'inizio. Sappiamo che Trump ha utilizzato, ma anche lo stesso Conte, hanno mobilitato questa metafora della guerra per parlare del contrasto messo in campo dei loro governi all'epidemia. E come loro, molti altri governanti in Italia, anche di livello regionale. Quindi la mia riflessione è su questo appunto. Poi darò la parola a Sara e Tristana da prima, in questo primo round di opinioni. Utilizzare la metafora della guerra in qualche modo ci ha privato della condizione, in qualche modo oggi anche del privilegio, no? Di essere cittadini. Diventiamo invece dei soldati che sono mobilitati in un conflitto contro questo nemico invisibile che è il virus. Il pericolo è oggettivo, ma viene bellicizzato, viene trasformato in un nemico di guerra. E quindi a noi si chiede obbedienza anziché consapevolezza. E questo è un tema su cui vorrei chiedere, in particolare questo della consapevolezza, l'opinione appunto di Sara Gandini. E si mobilita il patriottismo, fin dall'inizio si è mobilitato appunto le bandiere dai balconi, il canto anche dell'inno nazionale, sono diventate pratiche comuni, anziché mobilitare. A mio parere un'epidemia del genere, un'emergenza del genere dovrebbe essere un motivo di solidarietà. I governi dovrebbero dire: aiutate i vostri vicini, aiutate i vulnerabili, aiutate i più deboli, chi è in difficoltà. E invece abbiamo avuto soltanto questo appello, diciamo, al sentimento nazionale. E questo lo vediamo oggi riverberato in questa fase 2, cosiddetta fase 2, in cui vediamo una soppressione dei diritti civili e politici, sapendo tutto, ovviamente le attività economiche forti, ma non si è riconosciuta ancora la possibilità di manifestare, di esprimere il proprio pensiero nelle strade, nelle piazze. Quindi chiederei a Sara, dal suo punto di vista di epidemiologa, di farci comprendere le perché appunto si è arrivati a questa situazione che stavo brevemente cercando di delineare. Sì, io sono assolutamente d'accordo. Cioè, di fatto quello che è successo è che è stato affrontato un problema di salute pubblica con un linguaggio e una mentalità bellici. E quindi una gestione da protezione civile, di fatto terrorizzando la popolazione, no? E quindi tutte le notizie giorno per giorno dei morti, la televisione bombardati da questa appunto numeri continui di morti ogni giorno, sembrava appunto di essere veramente in una guerra. Quindi questo clima ha creato ha spaventato, ha creato un terrore per cui di fatto la gente non aveva neanche più il coraggio di provare a mettere in discussione quello che stava accadendo, cercando di capire in realtà, proprio anche cercare di capire cosa stava accadendo. Quello che è successo è che sono stati usati, anche se a mio parere strumentalmente, una serie di modelli predittivi. E tra l'altro questi modelli predittivi ne sono usciti una marea di anche molto contraddittori tra di loro, anche, per fortuna, e alcuni che cercavano di dimostrare l'efficacia del lockdown, altri che sono stati pensati proprio per cercare di influenzare le scelte dei governi. Uno di questi era proprio il modello dell'Imperial College, che ha di fatto influenzato grandemente le scelte di molti paesi. Modelli che non sono passati al vaglio della revisione indipendente della comunità scientifica. Questo è un problema, nel senso che quando si fanno dei modelli, anche i modelli predittivi, comunque tutti gli studi scientifici che prevedono le stime di fattori di rischio, dovrebbero tutti quanti passare per una revisione indipendente, quindi di ricercatori della comunità scientifica che in modo anonimo giudicano gli studi e cercano di capire i limiti, proporre alternative, interpretazione. Questa cosa è proprio saltata completamente. Cioè, Anzi, mi sembra che ci sia stata una proliferazione, ma questo forse è un aspetto leggermente tecnico, di instant papers, di articoli esattamente. scientifici pubblicati all'istante, in tempo reale, fatti anche su un'onda molto emotiva, che quindi perdono poi un rilievo genuinamente scientifico, mi sembra. Esattamente. Ma addirittura appunto quello dell'Imperial College nemmeno quello, cioè è un documento che è uscito, ma come anche il comitato, il rapporto del Comitato Tecnico Scientifico del governo Conte, cioè sono documenti molto parziali, tra l'altro neanche completi, comunque che è difficili da capire, bisogna andare a rivedere tutti i calcoli fatti, ma alcuni li hanno fatti, sono andati a rivedere e hanno trovato anche svariati errori. Gli stessi autori dell'Imperial College hanno modificato i loro modelli e rivisto tutta una serie di stime. E il problema di questo tipo di modelli è che molto spesso presentavano lo scenario peggiore e non problematizzavano, cioè non tenevano conto di tutta una serie di variabili che invece andavano, come dire, tenute insieme per non, come dire, anche per tener conto delle conseguenze che determinate scelte hanno non solo sulla diffusione del virus, ma anche sulla salute in generale della comunità, della cittadinanza, della società. Cioè, non si può separare come dire, gli effetti del virus da quelli che sono gli effetti delle stesse scelte politiche, perché anche queste avranno poi delle conseguenze a livello di salute, a livello di povertà, a livello, quindi la dimensione economica, politica, sociale deve essere tenuta insieme con la dimensione, diciamo, sanitaria, insomma, quando si ragiona soprattutto appunto in termini di epidemiologia e quindi non della salute del singolo cittadino. Il singolo cittadino è all'interno di un contesto e quindi tutte le dimensioni devono essere tenute insieme. E la comunità scientifica non ha potuto fare quel lavoro di, come dire, anche di contenimento, di controllo, chiamiamolo, comunque di verifica, perché sono proprio saltati tutti questi, con l'urgenza, io penso anche veramente un po' strumentale, comunque di uso dell'opinione del singolo esperto per far passare una serie di scelte e anche, come dire, bloccare la discussione critica, mentre la comunità scientifica dovrebbe essere lasciata libera di confrontarsi senza censure e autocensure. Grazie, Sara, credo che da questo punto di vista è molto interessante la testimonianza e la riflessione, credo, di Tristana Dini, dal suo osservatorio della Campania, della regione Campania, dove c'è stato questo protagonismo più che degli scienziati, dei politici locali, in particolar modo anche del pittoresco e truce presidente della regione Campania, che si è imposto come un esempio appunto di strongman, no? Di uomo d'ordine che ha utilizzato, ha sfruttato, no? Ha surfato, no? Sull'emergenza ai fini del consenso politico, e ha mobilitato apertamente degli strumenti anche di guerra in qualche modo, le nostre case sono state sorvolate da elicotteri, sembrava di essere, qualcuno ha detto, in Apocalypse Now. Vorrei sentire da Tristana come ha vissuto e che cosa pensa di quello che abbiamo visto in questa regione, in Campania. Sì, allora io penso che da un certo punto di vista siamo stati avvantaggiati, nel senso che abbiamo visto il re nudo con molta facilità, grazie alla radicalizzazione in qualche modo delle misure di polizia messa in campo da De Luca, laddove invece in altri luoghi d'Italia magari ci hanno messo più tempo a capire qual era, diciamo così, il paradigma che stava funzionando, che era in atto. E il paradigma che stava funzionando è che un paradigma che ha creato un grande consenso è proprio questo qui, della guerra, dell'assoluta mancanza di responsabilizzazione dei cittadini da un punto di vista, diciamo così, della maturità intellettuale con cui si poteva valutare, aderire. Quindi non si è data alcuna fiducia ai cittadini, ma di fatto praticamente li si è da una parte deresponsabilizzati e dall'altra li si è colpevolizzati, diciamo così. Quindi c'è stato tutto un meccanismo di dai all'untore verso tutti coloro che in qualche modo violavano queste norme di sicurezza e che sembrava quindi coloro che stavano mettendo a repentaglio la salute della regione Campania, così come dell'intero paese. E la cosa grave è stata che la popolazione ha aderito con un certo consenso a questo meccanismo e a questa narrazione, sicuramente spaventata da quello che i media trasmettevano ogni sera e che, ahimè, anche una parte della sinistra ha, secondo me, un po' preso un abbaglio, per cui si è creato a un certo punto un consenso tale per cui era diventato proprio difficile mettere in discussione anche in un modo minimo queste misure, così come era diventato impossibile mettere in discussione anche appunto il lockdown a livello nazionale. Ed è stato lì che io invece, vivendo anche in casa mia come insegnante e come madre, la contraddizione del vedere davanti ai miei occhi il fatto che in realtà questo stato che ci raccontava che si stava prendendo cura di noi, in realtà non si prendeva affatto cura di noi, o meglio, la cura era monopolizzata sul tema Covid-19. E tutto il resto era lasciato fuori, quindi abbiamo avuto gli esclusi da questo meccanismo di cura. Poi bisognerebbe interrogarsi anche su come siano stati curati i pazienti del Covid-19 in una situazione in cui appunto avevamo un sistema sanitario nazionale ormai in ginocchio da 20 anni di tagli alla pubblica sanità. Gli esclusi, tra i quali appunto i ragazzi, i bambini, a cui è stato proibito in maniera assoluta di uscire di casa, una cosa secondo me inaudita, gravissima, che non ha secondo me nessuna base scientifica. La chiusura delle scuole che poi ancora si protrae, addirittura fino alla fine dell'anno scolastico. Noi ci troveremo in una situazione che il 18 maggio riaprirà praticamente tutto, resteranno chiuse le scuole e resterà impossibile, pare, manifestare il proprio dissenso in piazza. Grazie Tristana, e a questo punto possiamo mettere un primo punto nella nostra discussione e rimandare il proseguo al secondo momento anche con Pierandrea, e farei partire un intermezzo musicale e riprendiamo la discussione a breve. Grazie. Pensi centomila volte, pensi bene bene, mai ti senti sicuro, mai è questo che ti si chiede. Hai l'indice puntato su chi? this shit. It's the musty and radical effect. Stop, stop, stop, stop, stop. DJ War e DJ Fabri, special guest CGD, Soul Boy, Papa Ricky, programmato dai Tubi Forti, detonato all'Harmony Studios. Maximum rispetta, super radical producer Cesca, Squad, Isola del Cantiere, BPM 8, Radio Città del Capo e tutto il resto del network. E soprattutto vi darà forza alla campagna Stop al Pari. Questa è solo la prima mossa, hai detto. Niente pace, niente giustizia. Ok, io penso sia a posto, si va. Stop it! Ok, ciao, ecco, insomma abbiamo finito la prima parte della discussione parlando della sparizione coatta, se vogliamo dire, della scomparsa coatta dei bambini dalla nostra vita pubblica, dalle nostre strade, come ci diceva Tristana, qualcosa che è avvenuto non solo nella regione Campania governata dal presidente De Luca, ma anche un po' in tutta Italia. Credo che la questione dei bambini, ma anche la scomparsa degli anziani, molti anziani hanno raccontato di essersi scoperti tali con questa epidemia, anche dei giovani anziani, per dire così, no? Si sono scoperti anziani con questa epidemia. E credo che questa epidemia porti al centro delle nostre riflessioni una questione su cui il femminismo, i movimenti femministi contemporanei ragionano e portano avanti le loro campagne, il tema della cura, della politica della cura verso i più vulnerabili, verso i fragili, verso le diversità e così via. Quindi chiederei a Tristana di riprendere questo filo del suo filo del discorso e il nostro ragionamento intorno a questa politica della cura. Sì, allora diciamo che da un lato, come dicevo prima, insomma, questo discorso della cura, che poi adesso abbiamo anche il decreto Cura Italia, quindi questa parola è stata completamente assorbita anche dal governo, da un lato in qualche modo noi vediamo chiaramente che in realtà è proprio una costruzione del tutto fittizia, perché nella realtà non c'è stata cura, c'è stata tanta esclusione, e la scuola da questo punto di vista è sicuramente una cartina di tornasole importantissima, perché addirittura un quarto della popolazione scolastica è rimasta tagliata fuori dalla didattica a distanza. Quindi parliamo proprio della violazione, tra l'altro, di un dettato costituzionale, di uno dei diritti fondamentali. Siamo tornati indietro, diciamo, di anni ed anni, siamo prima degli anni delle riforme scolastiche degli anni 70. Dall'altro punto di vista, però, la cura è un campo di battaglia anche all'interno del femminismo. Per quanto mi riguarda, io trovo che sia sempre un tema che vada molto problematizzato. Infatti ho amato molto gli scritti di Cristina Morini su questo tema della cura e sul rischio, appunto, che questo tema della cura diventasse anche, no, un imperativo della cura alla quale eravamo chiamate come donne, cioè gli uomini e le donne arruolate in questa dimensione della cura durante questa emergenza, le donne arruolate a casa a fare questo smart working, a lavorare con i bambini, a prendersi cura degli anziani, cioè proprio una dimensione diciamo così ambigua di questo termine cura, è una dimensione scivolosa. La cura evoca sempre anche la possibilità di un controllo, di un potere più soft, un soft power, no? Come direbbe qualcuno. Quindi quando maneggiamo questo termine sia dal punto di vista teorico che politico, secondo me va sempre fatta molta attenzione nel cercare di significarlo nella maniera giusta. Sicuramente una possibilità è quello che io ho provato a fare in un articolo che ho scritto per Effimera, è quello di allargare, di appunto radicalizzare questo tema della cura e della vulnerabilità per renderlo quasi paradossale, quasi impossibile da applicare, cioè dire appunto dobbiamo avere cura di tutte le vulnerabilità, di tutte quante, e quindi niente deve rimanere, nessuno deve rimanere escluso. Quando la cura viene utilizzata dal basso, ad esempio con il mutualismo, che è stato sicuramente il protagonista da parte dei movimenti in Italia di questi due mesi, no? Quindi l'aiuto delle fasce, più per la solidarietà verso le fasce più povere, naturalmente è un'arma politica importante, sempre tenendo conto però appunto della difficoltà, anche della pericolosità di mettersi al posto dello Stato. Cioè, quando noi ci mettiamo nella traiettoria della cura, rischiamo sempre in qualche modo di supplire a quello che un welfare state ormai non offre più. E quindi è stato incredibile che in questi due mesi ci hanno potuto tenere a casa senza darci un reddito di esistenza. Allora, non voglio dire che è stata colpa di noi che abbiamo portato il cibo ai poveri, ovviamente no. Però bisogna tenere conto di tutti questi fattori, perché è appunto, secondo me, sempre un terreno molto scivoloso dal punto di vista politico, e quindi da un lato l'auto-organizzazione, il lavoro dal basso è sempre quello che funziona di più politicamente, però bisogna sempre tenere conto anche che a volte dal lato del potere ci si può approfittare di questa cosa qui, no? C'è una cosa che ci siamo sempre chiesti anche nel dibattito sui beni comuni, quanto i beni comuni, il lavoro dei beni comuni andasse a supplire, a togliere le castagne dal fuoco alle difficoltà di uno Stato e di amministrazioni che non sono più in grado di offrire nulla ai cittadini e agli abitanti. Credo che Tristana colga veramente un aspetto fondamentale, che questo assorbimento, no, di questa parola d'ordine che abbiamo sentito dei movimenti femministi della cura nel discorso del potere politico, nel discorso dell'establishment, no, e anche nel suo svuotamento, nella sua normalizzazione più che nel suo svuotamento. A questo punto sentirei l'opinione di Pierandrea, no, su questa ambivalenza di queste categorie, su come il potere politico si ricostituisce, no, in questa fase di emergenza e di politica dello stato di eccezione. Ugo, grazie, buongiorno a tutti. Una sola premessa: una delle grandi difficoltà di questi mesi era come prendere la parola dentro al caos della presa di parola. A un certo punto è stato anche proprio difficile orientarsi criticamente, come diceva Sara, intorno agli ordini del discorso che sono emersi, no? Cioè, abbiamo vissuto tante diverse reclusioni in questa fase, e una delle più difficili, una tentazione almeno per me, era quella sempre di sottrarsi, no? In qualche modo a questa marea di discorsi che chiaramente avevano un'esigenza, quella di forse anche rimuovere la questione, a mio avviso, fondamentale, cioè che di fronte, o comunque una di quelle fondamentali, cioè che di fronte al pericolo, peraltro un pericolo che aveva anche dimensioni, specificità geografiche che sono state, facciamo finta di crederci, rimosse, dimenticate, cancellate, ma insomma per la salute si è deciso di gestire il pericolo con l'emergenza, che è diventata di fatto un'emergenza politica, cioè la sospensione dello Stato di diritto. Di fatto, con strumenti giuridici, diciamo, equivoci, raramente utilizzati per questioni di questo peso, si sono otturate tutte le libertà civili del nostro paese. E lo diceva, credo, Tristana, e mi ha molto impressionato, perché sono molto d'accordo con lei. La questione da discutere, anche non solo oggi ma anche in futuro, è stata l'adesione a questa logica della colpevolizzazione. E naturalmente, evidentemente, probabilmente questa colpevolizzazione rispondeva a qualche esigenza, no, della popolazione. Cioè ci deve essere qualche forma di colpevolizzazione sociale che precedeva queste forme di colpevolizzazione, che evidentemente riguardano il governo neoliberale delle nostre esistenze, no? Che ci siamo, come si suol dire, ci sentiamo sempre in debito rispetto e per tante ragioni a queste forme di potere. Ed ecco la questione, a mio avviso, che cosa significa avere consegnato radicalmente in una fase come questa alla medicina il ruolo della decisione. Tristana diceva il 18 riapre tutto tranne la scuola, aggiungerei non si potrà fare politica. Cioè, l'altra questione che rimane in sospeso è la politica dei corpi, delle relazioni, degli spazi. Cioè, di fatto, questo stato di eccezione è stato organizzato, appunto, forse quello che più ha esasperato questo discorso inizialmente, a me pare, è stato Macron, è stato organizzato come una sorta di guerra contro un nemico invisibile. Noi eravamo dei soldati chiamati a non fare niente, l'importante era non agire, richiuderci in una dimensione di sangue, cioè esclusivamente familiare, dove il necessario di fatto coincideva con una dimensione, diciamo, ora chiaramente semplifico, biologica, cioè le relazioni puramente necessarie, come in fondo ancora oggi è rispetto al grande tema dell'esclusione dell'amicizia in questa fase di riapertura. E quindi questa forma di eccezione classica nelle fasi di crisi, sempre per il capitalismo, sospensione della politica, cioè sospensione dell'azione politica. Come dire, scusate che faccio un discorso di mestiere, un filosofo molto noto non solo in Italia, Giorgio Agamben, è stata una voce critica che si può criticare rispetto alla gestione dell'emergenza, in particolare nel nostro paese. Ciò che mi ha colpito, ripeto, non è il discorso di Agamben, che ha prodotto una critica severissima della logica del distanziamento sociale, facendo mostrare i pericoli per l'oggi e per il domani. Ma è ciò che ha scatenato questo discorso di Agamben, che ripeto, si può criticare come qualsiasi altro discorso, ha scatenato un genere letterario intellettuale con una ferocia e un risentimento problematico rispetto a qual era il discorso di Agamben. Come si può affrontare un pericolo del genere affossando, soffocando la dimensione della politica? Però Tristana credo che metteva in luce un elemento importante, che anche negli ambienti protagonisti di quelle forme di istituzione fuori ogni istituzione, cioè quelle che anche Ugo richiamava del mutualismo, a mio avviso hanno sottovalutato inizialmente la dimensione dello stato d'eccezione come rimozione dell'azione politica. Cioè che quelle forme di mutualismo, per non tradursi, e non c'era certo questa intenzione dai protagonisti di questo lavoro, per non tradursi in forme, diciamo, di solidarietà necessaria, ma senza dimensione politica, avevano bisogno di una rappresentazione, e di una rappresentazione che non poteva essere esclusivamente il valore d'uso della macchina computer, certo che ha permesso forme di socializzazione a cui dobbiamo chiaramente in qualche modo essere grati in questa fase. La macchina resta una macchina, ma il problema è stata la questione dei non produttivi, cioè i bambini e gli anziani, cioè tutti quelli fuori la logica del governo neoliberale, mostrano esattamente questo problema, cioè che la vera questione è stato il rapporto, credo, tra medicina e politica, per cui il nostro compito oggi, secondo me, e per questo non bisogna farsi risucchiare dall'attualità totalmente, perché l'attualità cambia ogni 24 ore. E non dobbiamo quindi, a mio avviso, se è possibile, ognuno dalla propria posizione, non farci risucchiare dall'ordine del giorno dettato da chi decide prima: restate a casa, comando della legge. Si sveglia una mattina, praticamente gli stessi dati, più o meno, comando della legge, uscite, no? Tornate di fatto in qualche modo a consumare, a lavorare, ammesso e non concesso che si siano veramente fermati certi tipi di lavoro in certe zone del paese. E quindi io credo che la vera questione era la gestione di questo pericolo senza il conflitto. No? Cioè, è la questione che, secondo me, non so, Sara, Tristana, Ugo, che ne pensate, cioè l'idea di quella nazionalizzazione del pericolo, siamo tutti uguali, restiamo tutti a casa, era un altro modo per, è quello che arriverà adesso, di questa unità nazionale che in nome del pericolo deve rimuovere il problema del conflitto. E questo ha tagliato vecchie alleanze e speriamo che ne produce di nuove. Fammi chiudere, Ugo. Sì. Ogni volta che c'è una crisi, lì si apre la politica. Cioè, adesso si apre uno spazio per un discorso e azioni politiche con alleanze forse inedite che devono prendere sul serio in qualche modo la questione che diceva questo filosofo Giorgio Agamben: ora è il tempo di un vero stato di eccezione, cioè una politica che esca fuori dalla logica stai a casa, ora esci perché noi ti permettiamo di farlo. Grazie per Andrea, e penso che possiamo concludere questo secondo giro di punti di vista e dare la parola alla regia per l'intermezzo musicale, e riprendiamo a breve. Grazie. Wow. Riprendiamo la discussione. Evidentemente un nodo fondamentale che ha posto questa emergenza è il rapporto tra scienza e politica governo. Da un lato in alcuni paesi, ad esempio i paesi scandinavi, sentiamo dire che i politici in qualche modo si sono defilati e la parola è andata ai rappresentanti del sistema scientifico, istituzionale, sanitario, che hanno di fatto gestito l'emergenza. Da noi c'è stata ben più significativa da questo punto di vista ambiguità. Da un lato la politica, il Presidente del Consiglio giustificava le proprie azioni, le proprie decisioni alla luce delle raccomandazioni offerte dagli scienziati. Dall'altro lato queste raccomandazioni non erano sempre ben verificabili. Io ricordo che quando è stato proclamato il lockdown, vi era stato la chiusura delle scuole, vi era stato sul sito di Repubblica, era apparsa la notizia che era rimasta per diverse ore che il Comitato Scientifico della Protezione Civile aveva espresso un parere contrario. Dopo qualche ora quella notizia è stata tolta, su Repubblica cartacea del giorno dopo quella notizia non c'era più. Io ero curioso di sapere anche da cittadino chi erano i componenti di quel comitato scientifico e non era dato sapere. Quindi questo problema in inglese direbbe accountability, no? Del controllo, della verifica democratica, no? delle decisioni e dei pareri della comunità scientifica, credo che sia una lezione molto importante che ci restituisce. In Italia, nel nostro contesto in modo particolare, ma si potrebbe estendere, ma questo è quello che conosciamo meglio nei suoi particolari, è venuta a mancare quella verifica democratica, quella verifica dei poteri, no? Come avrebbe detto Franco Fortini, delle decisioni che la comunità scientifica trasmetteva o presuntamente trasmetteva al potere politico e ai governanti. Vorrei, sono molto curioso di sentire l'opinione di Sara da scienziata e da scienziata anche politicamente impegnata. Sì, io sono assolutamente d'accordo che in questa fase era veramente molto importante permettere che gli scienziati potessero confrontarsi fra di loro e anche mettere in discussione, per esempio, le ipotesi alla base dei vari modelli, e quindi, come dire, esercitare il senso critico e discutere tra di loro e mettere in discussione ogni scelta che veniva fatta. Poi di fatto invece è stato esattamente l'opposto, quindi per settimane chi provava a mettere in discussione anche, come dire, le basi del lockdown, per esempio l'evidenza scientifica delle scelte che poi hanno portato al lockdown, veniva tacciato di essere appunto un negazionista, un complottista, un alleato di Confindustria, e persino la necessità di studiare le caratteristiche della malattia o fare confronti tra i paesi era avvertito come pericoloso. Quando è fondamentale andare a vedere quella che è di fatto l'evidenza scientifica alla base dell'efficacia, per esempio, delle misure di controllo della diffusione del virus. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivisto il livello di evidenza scientifica, per esempio, delle mascherine, e sia basandosi su quella che è l'esperienza del passato con le altre pandemie che sulla base dell'esperienza degli studi che sono stati fatti quest'anno, e si è visto che non hanno proprio esplicitamente consigliato di non usare le mascherine per tutta la popolazione, eppure questa è stata una scelta che è stata presa come se fosse una verità. Quindi la possibilità di poter andare a verificare quelle che sono le stesse direttive dell'OMS è stata messa in discussione. Quando ovviamente l'OMS ha detto chiaramente che era necessario isolare il maggior numero possibile di persone entrate in contatto con il virus, mettere in quarantena i loro contatti più stretti, ma non ha indicato altro. E infatti anche quando c'è stata prendere posizione per esempio nei confronti della Svezia, è sceso in campo lo stesso il capo del programma di emergenze sanitarie dell'OMS, Mike Ryan, e ha sostenuto la Svezia dicendo che di fatto quello che avevano fatto di diverso è che si sono basati su un rapporto di fiducia con la cittadinanza, mentre in Italia si è pensato che ci fosse bisogno di misure autoritarie per mettere in sicurezza i cittadini, che nella narrazione diventavano gli irresponsabili, la narrazione sui giornali. Quindi, poi ribaltando il senso, perché di fatto le tragedie che in effetti sono accadute, sono la responsabilità, sono tutte a carico invece di chi ha amministrato la sanità in tutti questi anni e tuttora amministra. Quindi io sono convinta sostanzialmente che tutta una serie di provvedimenti, appunto quelli che sono stati fatti all'8 marzo, sono tutti più che ragionevoli. Il problema è dopo, è quello che è successo dopo, è l'impossibilità di poter ragionare in senso critico, perché il tema della salute è un tema politico che riguarda tutti i cittadini e il senso della comunità, cioè la comunità nella sua interezza. Bisogna tenere insieme l'aspetto, come dire, più scientifico di questi modelli che possono anche aiutare a interpretare la realtà, ma insieme a quello che è l'equilibrio generale della comunità, l'aspetto socio-economico, sono tutti elementi che devono entrare e di cui bisogna tenere la complessità. Non si può ridurre a solamente delle stime di modelli predittivi che peraltro erano, come dire, costruiti proprio anche in modo chiaro per dare delle indicazioni con scene, come dire, con dimensioni eccessive, anche previsioni che poi si sono rivelate ovviamente chiaramente, e sono stati anche molto criticati fortunatamente poi gli ultimi modelli che sono stati proposti dal governo Conte, su cui si sono basate le ultime scelte dopo con la fase 2, diciamo. Quindi questa, chiederei anche a Tristana questa opacità, chiamiamola così, no, dei processi decisionali nei rapporti tra scienza e tra comunità scientifica, soprattutto quella ufficiale e politica. Questo problema della verifica democratica, no, della verifica dei poteri, dicevo prima, della verifica pubblica, no, dei processi decisionali, come possiamo spiegare, sarei curioso di sentire Tristana, ai bambini, ad esempio, a livello pedagogico, no? Come possiamo renderli in qualche modo, costruire noi una razionalità di questa goffaggine a cui abbiamo assistito, anche questa cosa paradossale dei congiunti che possiamo... Come facciamo a spiegarlo ai bambini, questa goffaggine delle decisioni politiche a cui abbiamo assistito, questo carattere quasi a volte parodistico, se vogliamo? Ma diciamo che mia figlia lo ha respirato a casa, questo discorsi, questo clima. Infatti lei ama molto disegnare, a un certo punto ha disegnato una serie di disegni, di vignette, con questo poliziotto che inseguiva una signora che faceva la spesa, il poliziotto che inseguiva la donna con bambino che andava al parco. Quindi credo che la goffaggine, il delirio di questi 2 mesi sia passato, ed è stato, diciamo, difficile come genitori in qualche modo far capire che l'obbedienza ha dei limiti, e pur tuttavia naturalmente cercare di trasmettere comunque l'importanza anche dell'esistenza di alcune regole. Però quando queste regole non hanno alcuna base, diciamo, né scientifica né di una condivisione politica, vanno sostanzialmente rifiutate. E questo è stato, insomma, noi siamo di fronte alla questione scuola, di fronte veramente ad una situazione quasi imbarazzante, il fatto che non esista ad oggi una chiara comunicazione su quando e secondo quali criteri avverranno le riaperture delle scuole, che poi appunto la follia è che in alcune zone d'Italia siamo a contagio zero da tante settimane, quindi queste scuole non si capisce proprio perché non possano riaprire. E ci si potrebbe diciamo trincerare dietro l'impreparazione del governo, in parte è vero questo, dall'altra parte però meraviglia un po' la incredibile diciamo preparazione e l'investimento economico che è stato fatto dal punto di vista della didattica a distanza. Quindi sarebbe interessante vedere che significato ha questa digitalizzazione, questa smaterializzazione dell'apprendimento, e quale significato avrà nel futuro per quanto riguarda poi anche l'ambito lavorativo. E è indicativo anche il fatto che non siano stati assolutamente descritti dei modelli di rischio. Cioè, in Germania la Merkel ha esattamente spiegato quali erano i margini di rischio che si possono correre per la riapertura a scuole, quindi naturalmente si trattava di un governo del rischio. Qui invece sembra che non vogliamo rischiare nulla, qualcosa, pur cercando di cautelarsi e di tutelare il diritto alla salute di tutti, bisogna sempre rischiare, perché l'unica cosa che non comporta rischi è la morte, scusate. Credo che, e passerei la parola a Pierandrea, pensando anche all'oggi, a quale pratiche di riappropriazione, no, della presa di parola, dello spazio pubblico, dello spazio democratico, a cui facevano riferimento anche Tristana e Sara nei loro interventi precedenti. Oggi, in questi giorni, in queste settimane, non solo in Italia, ma anche, se abbiamo visto, ad esempio negli Stati Uniti, il terreno della protesta o pseudo protesta, in questo caso, è stato in qualche modo monopolizzato, egemonizzato. Abbiamo visto negli Stati Uniti in automobile i patriottici un po' da Tea Party statunitensi che protestavano contro il lockdown. In Italia abbiamo avuto alcune piccole manifestazioni di protesta da parte dei commercianti. È possibile oggi una politica democratica? È possibile sottrarre a queste forze di destra, in qualche modo, in alcuni casi persino reazionarie, questo monopolio che hanno acquisito dello spazio pubblico, con conseguenze che poi possiamo anche immaginare per i prossimi mesi. Quindi quale politica democratica è oggi possibile nello stato di eccezione che continuiamo a vivere? Chiederei a Pierandrea. Grazie Ugo, la mia impressione è che quella soglia sottile tra stato d'eccezione e stato d'emergenza non ha nulla di eccezionale, quello che abbiamo vissuto in realtà, cioè è stata una probabilmente radicalizzazione di processi già in atto. E la mia impressione è che le rivolte delle destre, che hanno assunto un carattere antigovernativo, ma nel senso antiscientifico, antichiusura, in realtà il loro ruolo mi sembra oggi proprio quello di ostruire, persino di occupare il campo invece a quello che prima cercavo di chiamare un vero stato politico di eccezione, cioè di tutte quelle figure della politica che rifiutano uno stato d'eccezione che non ha nulla di eccezionale, cioè governato sostanzialmente, governato secondo me attraverso la logica dell'iperrealismo. Cioè noi abbiamo vissuto anche dolorosamente per prese di posizione persino inconcepibile di intellettuali, politici, compagni che hanno preso la parola vicino alla parola del governo, e la parola del governo era: sospendiamo la legge in nome della legge. Questo è lo stato d'eccezione, e non a caso oggi Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria, può fare un discorso radicalmente politico, durissimo, e chiaramente difendendo posizioni che si riproducono ormai in maniera molto chiara e dolorosa per chi non ha da oltre 30 anni, ma anche di più naturalmente in termini neoliberali. Quindi Ugo, dicevi, quali sono gli spazi per una possibile politica democratica? Noi dobbiamo produrre, secondo me, quello che non c'è stato, cioè, paradossalmente, per quanto possa sembrare assurdo, cioè l'evento. Ed è possibile, io chiederei... Questo è un evento, Ugo, volevo chiudere, questo evento secondo me deve avere un carattere economico, cioè ripensare anche proprio le forme del mutualismo a cui tu richiamavi, ripensare proprio questa dimensione economica rispetto alla possibilità di un quel vecchio slogan, secondo me oggi urgentissimo, del lavorare tutti e lavorare meno, condivisione del rischio e condivisione dei tempi, no? Per mettere in discussione proprio il modello che ha prodotto questo stato di eccezione che non ha nulla di eccezionale. Scusami Ugo, mi sono dilungato. No, a proposito, per chiudere il nostro cerchio, il cerchio della discussione, c'è il titolo dell'ultimo libro di Judith Butler, la famosa filosofa e psicanalista statunitense, intitolato La forza della non violenza, che sembra un ossimoro, no? La forza della non violenza. È possibile una gestione, anziché bellicistica, come abbiamo assistito in questi mesi, una gestione non violenta di questa emergenza sanitaria? Chiedi a me, Ugo? Sì, ma anche se vogliono fare una battuta Tristana e Sara. Sì, facciamo, inizio io molto breve. Molto breve. Sì, io credo che la prima cosa da fare è prendere congedo politico da tutte le forme delle politiche istituzionali oggi. Questo è il passaggio fondamentale. Cioè prendere congedo innanzitutto dalle forme violente della politica istituzionale oggi, che non significa esclusivamente, ma anche quello, le forme immediatamente repressive. Cioè ci bisogna prendere congedo innanzitutto dall'organizzazione della politica oggi. È un passaggio molto complicato, perché altrimenti rientriamo immediatamente dentro la logica del comando e del controcomando. Questa è una fase fondamentale, e per questo giustamente richiamavo quello che già tu citavi, cioè le forme del mutualismo, che però devono assumere un carattere politico. Questo è... secondo me urgente. Tristana e Sara, è possibile una gestione non violenta dell'emergenza sanitaria? Allora, fatemi fare solo una battuta, la faccio da femminista. Per, d'accordo sulla non violenza, però voglio anche sottolineare l'importanza di rendere politica la rabbia, che è uno del, come dire, chiamiamolo slogan comunque di espressione che ho usato nel primo articolo di Effimera, perché adesso c'è una rabbia sociale molto, molto feroce e bisogna capire come riuscire a renderla politica, dare voce, non è violenza, ma c'è anche, ma va tenuta quell'energia lì, va tenuta. E credo che sia fondamentale riuscire a capire come farne qualcosa di buono di quella rabbia lì. Per tutti. Cristiana? Sì, assolutamente in linea con quello che dice Sara. Credo che ci aspetta uno scenario da un certo punto di vista molto difficile, però anche interessante. Sicuramente il discorso del rendere politica la rabbia sarà il terreno principale sul quale lavorare, perché credo che ce ne sarà tanta, al sud già si sente, insomma, e bisogna fare attenzione a non lasciare il campo alla destra su questa rabbia che è così forte, che è trasversale a tanti ceti sociali, anche perché non hanno, anche i piccoli commercianti, insomma, non solo le fasce più povere della società, è tutto uno scenario da vedere, da vivere, insomma, credo che sia questo il discorso che andrà fatto e l'attivismo che possiamo praticare. Ok, se credo che siamo ormai agli sgoccioli, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, quindi do un ringraziamento veramente di cuore a Sara e Tristana e Pierandrea per questa bella discussione, spero, e credo che questa discussione andrà ripresa e rilanciata per rianimare il dibattito e il pensiero critico sullo stato di eccezione e sulla politica delle emergenze. Grazie e ciao. Grazie, grazie. Grazie. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze. Dissonanze.